Ben dotate e frequentate nel primo Novecento a Legnano le biblioteche popolari. Primeggiava anche popolare e quella cattolica di Legnanello. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento esisteva anche la Biblioteca Cattolica di Legnanello, che si affiancava ad altre biblioteche popolari e pubbliche di Legnano, il che fa ritenere che l'ansia di cultura e conoscenza fosse molto viva anche nell'antico borgo. Sulla parte interna della copertina del volume edito nel 1884, autore Giulio Verne, intitolato La scoperta del nuovo mondo, pervenuto in dono alla biblioteca della famiglia Legnanese, in quei giorni da parte del commerciante Giancarlo Roberti dell'omonima salumeria di Corso Garibaldi, era stato incollato il regolamento della Biblioteca Cattolica, che ci offre qualche singolare considerazione. Si legge innanzitutto che la biblioteca era aperta la domenica dalle 12 alle 13 e che i libri venivano concessi a domicilio col pagamento anticipato di 5 centesimi per ogni volume in ragione di ciascun mese o parte di esso. Era poi specificato al punto 4 che chi passasse i libri ad altre persone è pregato a ritirare 5 centesimi per ogni libro letto. C'era anche la possibilità di un abbonamento annuo del costo di 6 lire con facoltà di prelevare dalla biblioteca uno o più libri, senza altra tassa per tutta l'annata. Una autentica istituzione legnanese era costituita dalla Università Biblioteca Popolare, fondata nel 1907, con lo scopo di diffondere, specialmente nella classe operaia, la cultura letteraria e scientifica mediante periodiche e frequenti lezioni, conferenze e con la circolazione di buoni libri. Nel 1908 erano già 350 i soci, che saliranno a 500 nel 1910 e a 550 nel 1912, quando la Biblioteca Popolare possedeva circa 2.500 volumi. Da documenti conservati nell'archivio storico comunale, datati 1920, risulta che l'Università Biblioteca Popolare era ospitata in Corso Magenta, nel Palazzo dell'Asilo, ed era presieduta in quell'anno da Giuseppe Ferrari, il quale, a nome del Consiglio Direttivo, il 19 novembre, scrive al sindaco per chiedere una più ampia sede per l'istituzione. La giunta comunale metterà a disposizione con propria delibera i locali del Palazzo Municipale lasciati liberi dall'Agenzia della Cassa di Risparmio. Ciò naturalmente a titolo gratuito, in quanto la Biblioteca Popolare poteva contare solo sulle entrate costituite dalle quote dei soci e le entrate variavano da 2.500 a 3.000 annue, ma erano anche frequenti oblazioni volontarie di privati benefattori. Questa istituzione, così come la più modesta Biblioteca Cattolica di Legnanello, contribuirono notevolmente alla diffusione della cultura popolare tra la cittadinanza, che poteva attingere anche tra le dotazioni librarie del Civico Istituto Tecnico e dopo gli anni venti alla Biblioteca dell'Istituto dell'Acqua, alla quale era confluito anche il patrimonio di libri della biblioteca privata Luigi Scandroglio, un dirigente industriale, perito chimico, che era stato anche un uomo di cultura e benefattore per le sue svariate oblazioni a noti enti pubblici e di beneficenza locali.